momento praticamente stiamo praticamente tutti quanti in audio, eh? Allora, stiamo in audio, adesso stiamo anche registrando su Bambuser. Antonio, tu ci senti? Antonio e Angelo, ci sentite? Vabbè, io ti sento, Teresa, senti, allora salutiamo un po' anche, diciamo, salutiamo un po' anche tutte nel frattempo tutte le altre persone, e comunque praticamente noi adesso stiamo andando anche in streaming, siamo collegati in streaming anche su Bambuser. E niente, questa comunque è la sesta riunione della disabilità. Diciamo la prima che stiamo un po' sperimentando e provando con l'ausilio della conferenza, della videoconferenza tramite Skype, e stiamo un pochettino, diciamo così, anche un po' sperimentando questa nuova modalità per fare la riunione anche in prospettiva del periodo, diciamo, di quando verrà il periodo invernale. Senti Teresa, vuoi un pochettino, diciamo, introdurre tu, anche perché diciamo che come ordini del giorno, noi no, non abbiamo degli ordini del giorno, non abbiamo stabilito degli ordini del giorno perché ci stiamo praticamente un po', siamo rimasti che tutte le future riunioni, insomma, ci aggiornavamo un pochettino sulle cose che stavamo facendo utilizzando gli strumenti come il Wikia sulla disabilità oppure la pagina Facebook sempre dedicata alla disabilità. E tu ultimamente, Teresa, comunque pure, diciamo, hai messo insomma, qualche proposta, se ce ne vuoi un pochettino accennare. Teresa? Non ti sento, Teresa. Teresa? Antonio, vabbè, ci sta dicendo che ci sente. Teresa? Ci senti, Teresa? Ci sei? Ci sei, Teresa? Teresa, non ti sento comunque. Teresa, io non ti sento. Allora, aggiungiamo anche, vediamo un poco il tono, vediamo se poi riesco a sentire. Teresa, io non ti sento. Allora. Sì, ti sento Angelo, vai un pochettino tu, Angelo. Vai un pochettino tu, Angelo, diciamo, stavamo un pochettino, diciamo, aggiornando, praticamente dicendo un pochettino quello che stavamo facendo in questo periodo un po' con la disabilità. Accenna tu qualche cosa, Angelo. Certo. Vai, Angelo, ti sento, vai. Sì, ti sento, vai tranquillo, vai Angelo, non ti preoccupare, vai. Ti sento Angelo, vai tranquillo. Ciao Vittorio, è entrato anche Vittorio Ricciardi, diciamo, in comunicazione. Aspetta, Vittorio, che stava, diciamo, stiamo in linea con Antonio Greco, ci sta Teresa De Giulio, Angelo Di Prisco al momento. Stava parlando adesso, diciamo, Angelo Di Prisco. Vai Angelo. Sì, le barriere architettoniche. Vai a dire un po' la voce, Angelo. Sì, chi è che sta parlando? Vittorio, chi è? Vai, Vittorio, vai. Sì. Certo, certo, certo. No, non lo vedi ad Angelo? Aspetta. Ecco, adesso diciamo diamo pure Teresa, aggiungiamo anche Teresa. Teresa, ecco, ti abbiamo aggiunto. Praticamente Teresa, stiamo io, tu, Vittorio Ricciardi, li vedi, diciamo, Angelo Di Prisco, diciamo che è un po'... diciamo, vabbè, al momento sto parlando... Ecco, sta Vittorio, vedi, adesso ti ha salutato Vittorio. No, prima, adesso ti ha salutato, diciamo, ha salutato Vittorio. Siccome che praticamente, Teresa, siccome che abbiamo problematiche nel senso con le persone che, diciamo, la voce va e viene a secondo praticamente un po' della connessione, siccome che approfittiamo che tu comunque stai... Che c'hai una buona connessione, se vuoi un po' spiegare un po', diciamo, queste cose che stai facendo praticamente, che diciamo stiamo facendo fino a questo momento, Teresa. Sì. Sì. Certo. Quindi credo che